rivolto a danzatori e performer. Per chi è interessato, tutte le info sul sito. E sabato 29 alle 9, sabato 29 settembre, che è l'ultimo giorno a Roma, al quartier Quadraro, Largo Spartaco e dintorni, chiudiamo questo, diciamo, queste 7 giornate di attraversamenti multipli, partendo alle 9, riproponendo Derivazione numero 3 di Salvo Lombardo, che sarà un po' diverso dal primo giorno, quando è strutturato in 2 step. Alle 9:30 ospitiamo uno spettacolo ha vinto Danza Urbana XL 2018, i due giovani danzatori che sono Francesco Capuano e Nicola Picardi, che presentano Twitch Project, un spettacolo pensato proprio per l'open air, quindi interagire con spazi urbani. Alle 10 abbiamo delle proiezioni video di Boomerang Production, che è questo progetto video che condividiamo insieme a Garage Zero di creazione di video fiction, e presentiamo una serie di video fiction. E alle 10:30 chiudiamo con un concerto hip hop con Kento, accompagnato da DJ Fer. E tutto questo lo trovate sul sito, che è attraversamentimulti.it, o su Facebook, sulla nostra pagina Facebook, con tutti i vari dettagli, gli orari definiti e quant'altro. Alessandra, in chiusura facciamo anche un bilancio da maggiorenni di questa manifestazione? Allora, tutti ci dicono questa cosa, perché effettivamente il 18° anno di attraversamenti multipli l'abbiamo, diciamo, voluto festeggiare facendo finta di non festeggiarlo, ma presentando un programma, penso, molto, con dei nomi anche forti della scena artistica contemporanea, quindi dedicandoci a noi e ai, diciamo, agli spettatori, penso, una programmazione ricca e articolata. Chiaramente noi siamo molto soddisfatti che siamo arrivati a questi 18 anni. Quando siamo partiti nel 2001, non è che avremmo mai pensato che si rafforzava il festival e che riusciva a percorrere e attraversare tutte queste annualità, anche perché chiaramente il festival, comunque, nonostante che ha raggiunto diciamo, i 18 anni di attività, nonostante i feedback estremamente positivi da parte del pubblico, il sostegno anche dalla critica e quant'altro, comunque, come un po' tutta quella che è la scena artistica contemporanea, è ancora un festival molto precario dal punto di vista del sostegno, diciamo, pubblico. Quindi ogni anno è un po' una lotta, diciamo, su cui non è cambiato, nonostante la maggiore età, cioè si lotta per riuscire a realizzarlo. Però, a parte questo, siamo soddisfatti, perché pensiamo che sia cresciuto e che comunque riesca a mantenere quelle che sono le sue radici, però ogni anno anche a rivitalizzarsi e a proporre degli elementi nuovi. Tra l'altro, quest'anno, una cosa che mi sono dimenticata di dire prima, un progetto in cui siamo molto orgogliosi e felici, che attraversamenti multipli, e la redazione del blog, che racconterà il festival in diretta, che è a cura di spettatori migranti slash attori sociali, un progetto nato da un'idea di teatro e critica, una web di teatro e critica, e spettatori migranti, e formato da ragazzi migranti e richiedenti asilo, che in questo momento si trovano a Roma, che seguiranno in diretta il festival e lo racconteranno. Quindi ci sembra anche un modo interessante declinare questa parola sconfinamenti, incontrando altri sguardi che guardano sulle scene artistiche, dove il teatro diventa un po' anche una pratica di cittadinanza attiva. Quindi questo è un po' quello che ci Sì, interessa di sì, attraversamenti, sì. quindi immaginare sempre un festival che comunque riesce a dialogare con la realtà e riesce nel suo piccolo anche a proporre degli altri sguardi e anche dei possibili cambiamenti, anche in maniera molto ipotetica, quindi relazionarsi in maniera molto forte col proprio presente. I riferimenti web ce li hai dati. Allora, un ringraziamento e un saluto ad Alessandra Ferraro di Margine Operativo, che ci ha presentato la 18ª edizione di Attraversamenti Multipli, dal titolo Sconfinamenti, dal 15 al 29 settembre a Roma, zona Quadraro. Alessandra, un abbraccio, in bocca al lupo e ci si vede lì. Grazie, grazie a tutti, vi aspettiamo da attraversamenti multipli.